Fino a quando tutte le gabbie non saranno aperte? Fino a quando tutti i laboratori non saranno chiusi? Non ci sarà liberazione neanche per gli esseri umani. Radio Possum, ogni lunedì dalle 22 alle 23 per parlare di antispecismo, liberazione animale e della terra. Fibio! Non si può andare qui! Fuori! Prima o poi vi sparo! Prima o poi vi sparo! E alle 22.03 siamo di nuovo in onda. Per la vostra gioia siamo qui con Radio Possum. Trasmissione di informazione antispecista per la liberazione animale della terra. Bene, di cosa parleremo questa sera? Di cosa parliamo questa sera? Parliamo con un collegamento telefonico di un... Tutto nasce, vabbè, dalla pubblicazione di un sito internet che si chiama Shaq Made the History. Shaq ha fatto la storia. Shaq è l'acronimo, la sigla di una campagna contro una grosso laboratorio di sperimentazione animale che si chiama HLS, di cui sicuramente avrete sentito parlare anche qui in trasmissione. E Shaq è stata una campagna, ed è tuttora una campagna perché è ancora in corso, che per almeno un decennio negli Stati Uniti, in Inghilterra e anche in molti altri paesi europei ha coinvolto centinaia, migliaia di attivisti. E quindi parliamo, insomma, anche alla luce di questo sito internet che nasce con l'intenzione di esprimere solidarietà a tutte le persone che sono state colpite dalla repressione in tutti i paesi in seguito a questa campagna, e anche dal fatto che domani a Villa Vegan a Milano c'è un'iniziativa di sostegno, ma poi questa approfondiremo. Insomma, parliamo con un attivista e ci facciamo un po' raccontare della campagna Shaq e del perché e anche della necessità di rilanciare la questione della solidarietà. Va bene, allora non andiamo avanti oltre, insomma, così lasciamo spazio anche al ragazzo, la ragazza che chiameremo, insomma, così almeno il babbo non continua a parlare e raccontarci tutto lui, insomma. Allora me ne vado e ti lascio sola alle prese con mixer, microfono, mannaggia, telefono e tutto quanto. Infatti ci scusiamo già perché probabilmente questa sera sarà un po' un delirio, però non impari, non vuoi imparare, è talmente semplice usare il mixer. Perfetto, va bene, allora mandiamo un'altra canzone nel frattempo e facciamo questa chiamata. Don't have Pronto, ci senti? Sì, sì. Ciao, come va? Ciao. Grazie bene, di essere bene. Qui al cosa? Telefono. Non ti sento bene. Ci senti? Adesso sì. Perfetto. Allora, insomma, stavamo presentando un po' prima di chiamarti appunto quella che è la campagna Shack. Intanto, insomma, diciamo che tu sei fai parte di Villa Vegan e noi stasera appunto ti abbiamo chiamato un po' così per sia per presentare anche l'iniziativa che abbiamo visto domani ci sarà nel vostro spazio e un po' anche per parlare appunto della campagna Shack. Sì. E senti, sì, no, vai, ti volevamo chiedere come prima cosa se ci parli un po' della campagna, che poi è difficile parlare in breve perché comunque è una campagna che è durata per parecchi anni e dura ancora, però se ci puoi fare un riassunto specificando anche che cos'è HLS, il laboratorio. Sì. Allora, la campagna è ancora in corso, ma il progetto che verrà presentato domani all'iniziativa qua a Milano non è specifico sulla campagna, nel senso non è una spiegazione, una descrizione o diciamo fare pubblicità per questa campagna, ma è piuttosto una riflessione su come è stato diciamo gestito o non gestito il lavoro diciamo di supporto ai prigionieri, alle persone, agli attivisti e attiviste colpiti dalla repressione durante la lunga storia di questa campagna, che ha visto appunto si è vista di fronte una quantità di repressione, anche una nella qualità di un tipo di repressione mai visto prima nei confronti del movimento di liberazione animale, diciamo, o animalista, come lo si vuol chiamare. La campagna Shack è nata nel 1999 da attivisti che avevano diciamo partecipato anche ad altre campagne in Inghilterra, in Gran Bretagna, contro in quel caso contro allevamenti di animali destinati ai laboratori di vivisezione. Ad esempio c'è il famoso il Grove Farm che allevava gatti per destinarli alla vivisezione, che era stato chiuso con una campagna di pressione. Poi c'era stato un altro famoso allevamento di primati, Shamrock Farm, ed altre strutture che erano state chiuse sempre diciamo con campagne locali e poi nazionali con chiamate diciamo che potevano portare anche migliaia di persone, però quello che aveva fatto la differenza in quei casi erano le persone, un nucleo di persone che comunque settimanalmente, quotidianamente diciamo rompeva le scatole alla struttura stessa, dunque l'allevamento, e ai suoi diciamo collaboratori, clienti, fornitori o gente che in qualche modo aiutava queste strutture ad andare avanti. Da questa diciamo esperienza è nata la campagna Shack, Stop Huntington Animal Cruelty, contro il più grande laboratorio di vivisezione d'Europa, Huntington Life Sciences, che uccide diciamo dove muoiono, vengono uccisi ogni giorno 500 animali diciamo di quasi ogni specie, cani, gatti, primati, criceti, conigli, roditori, ma anche bovini, ovini, pesci, diciamo ogni specie che vi può venire in mente che è usata dall'industria della vivisezione, industria farmaceutico-chimica per testare i suoi prodotti. Questo laboratorio ha anche delle sedi in Stati Uniti. E questa campagna partita prima dall'Inghilterra appunto colpendo sia il laboratorio, quindi Huntington Life Sciences, sia i suoi collaboratori, per cui fornitori di qualsiasi servizio, dalle gabbie ai prodotti di pulizia, alle compagnie di assicurazioni che assicuravano questo laboratorio ai clienti. Cioè questo laboratorio Huntington Life Sciences è un laboratorio che fa dei test per conto terzo, per cui se io fossi una azienda farmaceutica, che ne so, Novartis, che era cliente di Huntington Life Sciences, o AstraZeneca, che è tuttora cliente di Huntington Life Sciences, cosa faccio? Voglio testare il mio prodotto ad Huntington, pago, commissiono un esperimento, viene fatto questo test specifico ad Huntington, e poi uso per i miei profitti questi dati. Per cui la campagna colpiva i clienti, per cui coloro che le aziende che pagano al laboratorio per i propri prodotti, e come ho detto prima qualsiasi tipo di fornitore. La campagna, ci sarebbero mille cose da dire, nel senso che ha avuto un impatto su, non solo in Inghilterra ma in tutta Europa e in tutto il mondo. Si sono formati gruppi di attivisti che seguivano questa campagna. Ad esempio funzionava un po' con un sito principale, che era quello inglese nonché internazionale, in cui venivano lanciate delle chiamate di giornate d'azione, o comunque in cui venivano individuati grazie a informazioni da infiltrati o da comunque uno studio approfondito del commercio di questo laboratorio. Venivano individuati quali erano gli attori che facevano funzionare il laboratorio, e di volta in volta si colpiva un determinato cliente o fornitore. C'era stata una campagna contro UPS, ad esempio, che trasportava per Huntington Life Sciences, per cui in tutto il mondo c'erano proteste contro UPS. Accanto a questo c'è stata nella campagna una cosa molto importante, che c'era la parte pubblica della campagna, che era una cosa, e una cosa totalmente distaccata che non aveva nulla a che fare con la campagna, ma che ha dato un impulso forte e determinante a questa campagna, era l'appoggio persone anonime che praticavano l'azione diretta, come Animal Liberation Front o altri gruppi che facevano azioni di sabotaggio contro le stesse aziende contro cui gli attivisti, diciamo, pubblici facevano proteste durante il giorno. Questi di notte andavano a fare danni o sabotaggi o liberazione di animali per dare una spinta in più a questa campagna. Questo è stato anche determinante. Per cui niente, la campagna ha avuto dei grossi risultati, con molti clienti che hanno mollato questo laboratorio, hanno cancellato i propri contratti, facendo perdere tantissimi soldi ad Huntington. Ad esempio è stata la prima volta in cui il governo inglese, un governo appunto lo Stato, ha dovuto dare ad una struttura privata, ad esempio, un'assicurazione, perché non avevano più un'assicurazione, perché Huntington non trovava più una ditta di assicurazione che fosse disposta a correre il rischio di essere bersagliata da proteste in tutto il mondo o da azioni dirette. Oppure anche una banca è stata fatta appunto dal governo inglese, cose quasi mai viste prima per una struttura privata. Per cui in questo caso lo Stato ha dato, diciamo, Huntington nella pratica avrebbe dovuto chiudere, col fatto che lo Stato inglese ovviamente stava a tutelare i profitti e gli interessi dell'industria farmaceutica, una delle industrie, diciamo, più potenti nel mondo dell'economia. Diciamo che senza questo aiuto dello Stato Huntington avrebbe già chiuso. Senti, un po' l'hai anticipato te, appunto, il sostegno che il governo inglese soprattutto ha dato a un'azienda che era tecnicamente fallita. Sì. Anche perché tra l'altro poi diciamo che HLS aveva anche dietro una pessima storia, perché già alla fine degli anni 90 ci fu un'inchiesta, certo, giornalistica, no? Sì, all'interno dei laboratori, che mostrava la sofferenza degli animali, e tra l'altro mostrava sofferenze assolutamente gratuite, cioè mostravano i ricercatori che picchiavano animali senza nessuna ragione. Purtroppo, per fortuna, da un certo punto di vista, cioè la controprova, la dimostrazione meglio dell'efficacia della campagna è stata la fortissima ondata repressiva che si è articolata tra l'altro in più anni e in più paesi, no? E sì. Se ci vuoi anche un po' parlare di questo e poi anche fare un po' alcune considerazioni su che cosa sia la campagna contro HLS oggi. Sì, ma quello che è successo è che ben presto, ci sono voluti un po' di anni, perché lo Stato mettesse in atto delle, diciamo, politiche repressive, tattiche repressive specifiche contro il movimento antivivisezionista, nel senso che dal 2005 in Inghilterra sono state fatte, messe delle leggi specifiche, nel senso che colpiscono tuttora in modo specifico attività, diciamo, di attivismo contro la vivisezione. Dal 2005 è stato emesso questo SOCPA, questa legge SOCPA, che ora non mi ricordo esattamente in inglese cosa significa, significa Serious Organized Crime and Police Act, e questo sono due, diciamo, due articoli di legge che vanno a colpire chiunque diciamo faccia delle azioni, anche, diciamo, robe come proteste pubbliche, proteste legali contro, però che vanno a colpire attori o aziende all'interno dell'industria della ricerca della sperimentazione animale. Per cui se con questa legge si può colpire, diciamo, degli attivisti che fanno una protesta dentro un laboratorio, con la stessa legge non avrebbe valore se questi attivisti facessero una protesta sempre antispecista, sempre la liberazione animale, ma davanti a un macello, per dire. Per cui colpisce praticamente le campagne contro la vivisezione, e nella pratica la campagna che ha mosso più, diciamo, ha dato più fastidio all'industria, la campagna Shaq. Con questa legge SOCPA gli attivisti possono, le persone, diciamo, sono state condannate fino a 5 anni per reati minori come manifestazione non autorizzata o violazione di proprietà privata. Con queste, appunto, leggi specifiche sono state anche, diciamo, messe in atto ci sono state a più riprese delle ondate repressive sia in Olanda che in Inghilterra, con persone arrestate e condannate, diciamo, le persone che sono state condannate per questa campagna alle pene più alte sono state condannate fino a 12 anni di carcere, principalmente 3 persone, e in altri casi pene minori, diciamo di durata minore, non minore nel senso della pena, durata minore, però adesso a dire tutte le persone che sono state, diciamo, arrestate, quanti anni hanno fatto, sarebbe molto lungo, per cui consiglio di leggere l'opuscolo che verrà presentato domani sera. Poi non so se volete, dico già adesso il sito se qualcuno intanto se lo vuole vedere, oppure lo dico alla fine. Comunque si chiama il sito in cui si parla di questa, di tutta l'ondata repressiva, delle ondate repressive che sono andate contro la campagna Shaq e delle risposte che sono state date o si potrebbero dare. Si chiama shaqmadehistory.noblog.org e lì trovate informazioni molto più dettagliate sui vari prigionieri, le varie ondate repressive con l'anno e le pene a cui sono stati condannati. E senti una cosa, anche alla luce di quello che hai detto, soprattutto molto significativo è il fatto che ci sono due governi, due stati, c'è cioè la Gran Bretagna da una parte e anche gli Stati Uniti, che poi hanno la presidenza Bush, no, hanno varato l'American Enterprise Act, che è una cosa molto simile a quello in Inghilterra. È significativo che hai due poteri politici che non è che usano le leggi che già ci sono adattandole ai propri scopi, cercando di, come si fa qua per esempio in Italia, dando associazione eversiva un po' ovunque, certo. No? Ma qui in questo caso addirittura si creano due leggi specifiche ad hoc per perseguire e per colpire determinate forme di attivismo. Alla luce di tutto questo, alla luce anche della violenta repressione e anche alla luce del fatto che comunque la campagna Shaq continua, magari indebolita, ma continua in molti paesi d'Europa, le tue considerazioni un po' su quello che è stata la campagna, che è stata sicuramente molto innovativa, molto forte, molto coordinata, che di fatto è riuscita a vincere, nel senso che tecnicamente aveva distrutto HLS, anche se poi purtroppo ha avuto il sostegno del governo inglese, ma questa è una cosa non ponderabile. però anche a un certo punto, diciamo, se ci sono stati anche dei limiti, nel senso che per esempio alla fine degli anni 90 probabilmente almeno in Inghilterra il sostegno alla lotta contro la vivisezione era enorme e molto diffuso anche tra la popolazione, diciamo, non animalista, non antispecista, ma poi forse è successo qualcosa, che c'è stata, cioè, un'ondata di riflusso, non lo so, insomma, la tua interpretazione. Questo quello che dirò ora è più personale, perché non, cioè, nel senso, non so, c'è molto, ci sono vari fattori da considerare, nel senso, c'è questa lettura degli eventi per cui Shaq sarebbe stata, diciamo, una campagna, o comunque altre campagne sulla vivisezione, contro la vivisezione in Inghilterra, anche con diciamo l'apporto di azioni dirette molto eclatanti, avrebbe causato una perdita di supporto da parte del, diciamo, tra virgolette, l'opinione pubblica, e per cui una perdita, diciamo, di interesse e anche di sostegno da parte dell'opinione pubblica per le lotte contro la vivisezione. Ma sicuramente penso più ha avuto un impatto, e più la repressione, sicuramente con le leggi che appunto dicevi tu, SOCPA, e anche negli Stati Uniti, anche col caso degli Shaq 7 o altre leggi che colpiscono la Green Scare, ondate repressive contro movimento ecologista, animalista radicale, oppure comunque anche in Inghilterra sono state usate, adesso non l'avevo detto, però è una cosa molto importante, sono state usate leggi che già esistevano, però le hanno, diciamo, applicate all'attivismo contro la vivisezione. Ad esempio, alcune persone sono state condannate in Inghilterra per conspiracy to blackmail, che sarebbe cospirazione al fine di commettere ricatto, che ha pene fino a 14 anni di carcere, in cui appunto dal momento che tu inizi una campagna contro una struttura che fa vivisezione quindi vai dai suoi collaboratori e dici, protesti perché loro cancellino ogni contatto, ogni contratto collaboratorio, secondo questa legge faresti un ricatto, o fai una cospirazione al fine di commettere ricatto. Questa è una legge appunto che già esisteva nel codice penale inglese, ed è stata applicata appunto al movimento antivivisezionista. Per quanto appunto, per tornare al discorso di prima, per quanto riguarda la perdita di supporto dall'opinione pubblica, questo non lo so, ci sono varie ragioni. Forse anche una delle cose che emerge dall'opuscolo appunto che verrà presentato domani in Villa Vegan, che ripeto, non ho ancora detto, si intitola Shaq, una campagna che ha fatto storia, a proposito di repressione e solidarietà, che potete sempre trovare al sito, lo ripeto, sharkmadehistory.noblogs.org. c'è un po' questa impressione, anche parlando direttamente con attivisti inglesi che sono stati dentro appunto per la campagna Shaq, c'è questa impressione che il movimento in Inghilterra non fosse assolutamente pronto a far fronte alla repressione, diciamo, in modo politico, nel senso che sicuramente non sono mancati soldi e supporto, diciamo, di base, quali lettere alle persone in carcere, oppure la richiesta di cibo vegano per le persone in carcere, ma è mancato tutto un altro lavoro che è più, diciamo, politico, di lotta contro la repressione e di supporto che va oltre ai prigionieri. Questa cosa è mancata totalmente, e proprio parlando con alcune di queste persone si è capito che c'era una grossa lacuna nel movimento animalista per la liberazione animale inglese su quel fronte lì, e lì dove ha fatto più male, diciamo, la repressione, non tanto soprattutto nelle lunghezza delle pene, nell'assurdità anche di alcune, diciamo, di alcune restrizioni, che in alcuni casi, quando alcune persone, ad esempio le tre persone che, diciamo, avevano iniziato questa campagna Shark, tre persone che erano state condannate a più di 10 anni di carcere ognuna, hanno ricevuto, e queste poche persone lo sanno, non è girato molto, hanno ricevuto delle restrizioni a vita, nel senso che non potranno per tutta la loro vita più partecipare a qualsiasi campagna o progetto che ha a che fare con la vivisezione. E queste cose spesso non si sanno, non sono state, diciamo, neanche fatte emergere dal movimento inglese, non, in nessun modo, non c'è molta informazione su questa repressione, su queste leggi speciali, ce ne sarebbe da dire, diciamo, dei libri interi su come, diciamo, analizzare queste cose. E questo è un po' quello che esce leggendo questo l'opuscolo che verrà presentato domani, un po' questa lacuna e un invito, diciamo, a rilanciare il supporto, diciamo, anche politico a rivendicarsi, nel senso la radicalità di una lotta contro la vivisezione, il supporto all'azione diretta e il supporto ai prigionieri. Senti, un quadro invece sui prigionieri di sia inglesi che americani, che anche mi sembra ci siano due persone in Olanda, un quadro dei prigionieri attualmente, quante persone sono ancora in prigione, quante speriamo il più possibile? Allora, sulle persone, nel senso, adesso in carcere precisamente, per quanto riguarda Shaq, non ti so rispondere esattamente in questo momento. Io faccio parte di quelli che stanno, diciamo, non ho scritto io l'opuscolo, purtroppo non c'erano persone in questo momento disponibili per che hanno scritto l'opuscolo, per cui io ho fatto parte della campagna Shark, e per cui questo non lo so. Quello che so è il caso, appunto, quello più, diciamo grave al momento, comunque più importante per quanto riguarda la repressione della campagna Shark specifico. Ci sono due persone in Olanda che sono in attesa di essere estradate in Inghilterra, sempre per reati legati alla campagna Shark. Queste persone stanno appunto aspettando, senza sapere bene cosa succederà, e potrebbero essere, diciamo, deportate in Inghilterra in qualsiasi momento. E quello che è particolare di questo caso è che molti dei reati di cui vengono accusati sarebbero stati commessi al di fuori sia dell'Inghilterra, dunque la Gran Bretagna, che dell'Olanda stessa. È un'investigazione che è stata, diciamo, operazione di polizia che ha coperto, diciamo, un po' tutta l'Europa centrale, e la cosa è che si vede in questo caso come vari governi, gli stati di appunto i governi di la polizia di vari stati stanno, diciamo, collaborando appunto a livello europeo per mettere, diciamo, per questa ondata repressiva contro Shaq a livello europeo. Per cui queste persone, una olandese, una inglese, sono accusate, sono in Olanda in attesa di essere estradate in Inghilterra per reati commessi al di fuori di questi due paesi. Anche questo sarebbe una cosa su cui, appunto, riflettere, ed è interessante. Per quanto riguarda gli altri prigionieri, o comunque la liberazione animale, o questo, o per questa, appunto, antispecisti, per avere una, diciamo, una un po' più specifica, invito a visitare i siti, al sito ad esempio directaction.info, sotto la pagina prisoners ci sono tutte le varie persone in carcere in questo momento per azioni di liberazione animale o sabotaggi. Senti, qualcosa su che cos'è HLS oggi, visto anche che la campagna continua e visto anche che HLS non è che sia un'azienda, per fortuna, poi troppo florida. Quali sono ancora le aziende legate comunque a HLS e che la tengono di fatto artificialmente in vita? Ma come per appunto, come ho detto all'inizio, io non faccio più parte della campagna Shack e in Italia in questo momento non c'è un gruppo Shack come poteva essere anni fa attivo. Quello che c'è è che in alcuni paesi la campagna continua, e uno dei, diciamo, dei clienti principali contro cui sono state fatte, diciamo, ci sono state anche ad esempio in Svezia molte azioni dirette, è AstraZeneca, una compagnia farmaceutica, e però sinceramente appunto in modo un po', nel senso, senza, non per togliere nulla appunto agli attivisti, soprattutto anche in Inghilterra, che stanno, anche negli Stati Uniti, continuando questa campagna, la potenza, diciamo, la portata della campagna oggi nel 2013 paragonato a quello che poteva essere appunto nella prima metà degli anni 2000, comunque tutte dal 2000 al 2010, è molto cambiata, diciamo, anche la portata, soprattutto per la repressione e per altre cose interna al movimento appunto Liberazione Animale in Europa o anche negli Stati Uniti. Per cui, per un update più sugli obiettivi, sui fornitori e clienti, consiglierei appunto di visitare il sito shack.net, in cui c'è sicuramente una cosa molto più dettagliata, e non voglio ora dire cose che non so, per cui mi dispiace, ma consiglio di visitare il sito anche per questo, perché come ho già detto l'opuscolo che verrà presentato domani è più su sulla repressione, su, certo c'è un'introduzione su come, cos'è Shack, un po' la storia in modo breve, cos'è stata Shack, e poi ci sono capitoli specifici sulle leggi speciali contro la lotta antivisizionista, oppure quello che viene definito nell'opuscolo il carcere dopo il carcere, ossia quello che in Inghilterra hanno sperimentato molti attivisti che sono finiti in carcere per la campagna Shack, ossia che quando una persona viene condannata a 6 anni di carcere, ad esempio, se ne farà 3 o 4 in carcere, e poi gli ultimi, quelli che rimangono, spesso li dovrà fare in condizione di una sorta di sorveglianza speciale, in cui vengono emesse delle restrizioni totalmente assurde, a volte anche intentate secondo i capricci di un ufficiale, una persona ufficiale che si chiama in inglese probation officer, ossia una persona che deve seguire settimanalmente l'attivista, la persona che è stata tra virgolette rilasciata, e quindi valutare il reinserimento sociale dell'attivista, della persona condannata a questa pena. E in questi casi ci sono stati appunto attivisti che hanno raccontato di cose assurde, nel senso di tipo gli viene chiesto di cercare un lavoro, però ad esempio col divieto di vedere un telefono o un cellulare, cose del genere, e non a caso è stato chiamato appunto, definito dalle persone che hanno scritto l'opuscolo, il carcere dopo il carcere, perché semplicemente era un'umiliazione successiva al carcere, questi probation officer appunto. Va bene, insomma, se vogliamo anche un po' presentare la serata di domani a Villa Vegan, insomma, dicevamo un po' il manifesto, le 19:30 c'è la cena, poi presenterete il progetto e poi ci sarà il concerto a finire, insomma. Sì, ci sarà qualcuno che appunto che non ha potuto rispondere oggi, infatti mi spiace se non, alcune domande non ho potuto rispondere nei dettagli, però ci sarà delle persone che hanno appunto scritto l'opuscolo e hanno fatto anche il sito internet, che parleranno, presenteranno questo opuscolo, e ci sarà anche un dibattito su queste tematiche, e poi sì, ci sarà un concerto sempre benefit per appunto per questo progetto e per i prigionieri delle lotte antivisezioniste appunto di Shaq, o anche per cassa antirepressione, anche per chi non è ancora in carcere e deve far fronte a mille spese processuali. E poi sì, appunto, ci sarà il concerto con un gruppo canadese, Vile Intent, e altri due gruppi, e niente, ci sarà anche la cena appunto alle 7:30. E tra l'altro leggevamo che alle 18:30 ci sarà anche un dibattito sul fracking in Patagonia, appunto cosa che di cui abbiamo parlato noi lunedì scorso appunto con il ragazzo, sì, che è venuto. Sì. Sì, è stato diciamo purtroppo a quell'orario lì, perché non è stato all'ultimo, siamo riusciti ad organizzare grazie alla persona che ci ha offerto di venire a parlare, e speriamo che se qualcuno ascolta di Milano riesca a venire per quell'ora, perché sicuramente sono tematiche che anche si legano, e comunque è sempre importante fare diciamo legami tra le varie lotte, come tentiamo di fare appunto, o tentano di fare le persone che hanno scritto l'opuscolo sulla repressione contro Shaq, appunto, che il movimento si è visto appunto magari come un movimento troppo legato unicamente a tematiche strettamente animaliste, non è riuscito a far fronte diciamo alla repressione in modo politico, per cui è sempre bene unire tutte le lotte e avere presente quali sono i tra virgolette nemici comuni di sempre. Va bene. Per cui ci invitiamo tutti a questa serata. Va bene, allora noi, a meno che tu non abbia altro da aggiungere, magari ripeto il sito ancora, sì, l'ultima volta, perché così sicuramente sul sito si possono trovare tutte le parti dell'opuscolo, per cui tutto il testo di questo opuscolo, che si chiama Shaq, una campagna che ha fatto storia a proposito di repressione e solidarietà. È presente sul sito anche la traduzione inglese. Il sito è www.shaqmadehistory.noblogs.org. Va bene, allora noi ti ringraziamo per tutte le informazioni che ci hai dato, e insomma, quindi ci auguriamo che domani venga un sacco di gente a trovarvi. Grazie. Ciao, grazie a presto. Per l'intervista. Ciao, ciao, grazie. Con noi! Bene, torniamo in diretta. Sì, no, in realtà volevo un attimo chiudere il discorso di prima dando un paio di indirizzi internet. Uno, quello della campagna contro HLS, che il sito internet in inglese che si chiama shack.net, www.shack.net, shack S-H-A-C. E poi, visto che parliamo di prigionieri, un paio di indirizzi, di link sempre in inglese. Non so quanto siano aggiornati sinceramente, ma comunque poi uno li dà, poi chi vuole si può fare un'idea, soltanto che sono abbastanza impronunciabili, quindi uno è www.vdiveronapsg.org, che sarebbe l'acronimo di Vegan Prisoners Support Group, quindi VPSG. .org, mentre un altro è ancora dalla pronuncia ancora più improbabile, perché è www.alfsg.org.uk, ma se cliccate alf s di Savona g di Genova.org, insomma, vi dovrebbe indirizzare. E poi vabbè, niente, siamo passati un po' al momento delle notizie e ce n'è una oggi che vale la pena citare. Prendiamo spunto dal quotidiano LaRepubblica.it, che in questi giorni si sta molto dilettando a scrivere di TAV e no TAV, insomma, in maniera assolutamente, diciamo, a sproposito. Comunque, il titolo di questa notizia è: bloccati attivisti Greenpeace in Russia rischiano fino a 15 anni. C'è anche un italiano in mezzo. E il fatto è che Greenpeace si trova in questo momento in Russia per protestare contro l'estrazione del greggio da parte di Gazprom, e quello che sta succedendo in Russia è, tra l'altro, nella zona della Siberia, è tra l'altro molto analogo a quello che di cui abbiamo parlato lunedì scorso, cioè del fracking in Argentina. Anche qui siamo di fronte a un'operazione di distruzione totale della flora e della fauna locale, e anche delle comunità locali, come gli indigeni locali, le popolazioni autoctone sibiriane, che vivono per lo più di raccolta, quindi caccia e pesca e raccolta, e vivono anche dell'allevamento delle renne. Chiaramente vivono però a un livello che, se vogliamo, quasi primitivo. L'operazione della Gazprom, di estrazione della Gazprom, stanno praticamente distruggendo quello che era uno dei pochi angoli ancora quasi incontaminati del nostro pianeta. E si sa com'è la situazione in Russia, che è molto difficile organizzare proteste o attività di opposizione in un paese che è estremamente autoritario. Per quanto ci sia anche un forte movimento ecologista in Russia, che si batte soprattutto per la difesa delle foreste di Khimki e Bychvetsky vicino Mosca, che stanno per essere attraversate da un'autostrada. E comunque, niente, volevamo dare, insomma, un po' la segnalazione di questa, di quanto sta avvenendo anche in Siberia, visto che è un discorso purtroppo molto simile a quello che abbiamo affrontato lunedì scorso sull'Argentina. Andiamo un attimo con un'altra musica e poi tornerà un momento goliardico di questa trasmissione, che da un po' che manca, diciamo. Ci mancava tantissimo, ed è il vero motivo per cui noi facciamo questa trasmissione. Cioè, Liberazione Animale della Terra sono solo scuse, non ce ne frega niente in realtà. Salt private in the sun. In the name of the Father, in the name of the Father. and we're the ones who gave them power. We've made them the masters of the field. The spirits and the elements of nature and our pagan gods were called the devil. We were forced to yield. A ship of false sails on the oceans, and we've made it lord and master of the sea. But it's getting heavy and one day it must sink, and then all the world's people might be free. Insomma, per chi non l'avesse capito, finalmente, dopo mesi e mesi di astinenza, sì, finalmente ritorna il nostro grande idolo, che se ne è uscito con delle chicche che non possiamo perderci, insomma. Il nostro amico Carlo Giovanardi, che tra l'altro ha anche un sito, carlogiovanardi.it. Andatevelo a vedere perché è veramente entusiasmante. Notevole, è anche bella la foto sua in home page, sul banner di apertura. E niente, come sapete, il nostro senatore della Repubblica fondamentalmente ha due interessi, io le chiamerei più due ossessioni: una sono i gay e l'altra sono gli animali e gli animalisti. Scusa, le droghe dove le mettiamo? Nelle droghe, le droghe, beh, si è dato anche il nome a quella illuminatissima legge che tutto il mondo ci invidia, no? Vabbè, cioè, firmata tra l'altro con Gianfranco Fini, mica con uno qualsiasi, insomma. Vabbè, comunque, che cosa dice Giovanardi? Dice ben due cose, ne leggiamo una io e una te. Vuoi va cominciare bene, te? Dai. Allora, animali, Giovanardi, animalisti danneggiano economia, no a quelli violenti. Dopo la deportazione, no, non me lo illumina così che non ci vedo niente, scusate. Dopo la deportazione dei delfini e la chiusura del delfinario di Rimini, gli scontri al parco acquatico zoomarino di Torvaianica sono soltanto l'ultimo episodio di aggressioni, danneggiamenti e insulti. Con il senatore Carlo Giovanardi del PDL critica. Sto leggendo bene? Sì. Radicale. Critica l'animalismo radicale e difende chi vuole entrare in un circo equestre, visitare un delfinario, organizzare manifestazioni storiche come i pali di Asti e di Siena, acquistare una pelliccia, allevare animali, fare ricerche scientifiche sulle cavie. L'ala violenta dell'animalismo, cambio microfono perché non ce la faccio più. L'ala violenta dell'animalismo radicale sottolinea, attraverso intimidazione e minaccia, sta danneggiando gravemente comparti fondamentali della nostra economia. Purtroppo troppo spesso nell'inerzia delle istituzioni che si voltano dall'altra parte o addirittura simpatizzano per i violenti. Dietro tutto questo, conclude, si nascondono tra l'altro poderosi interessi economici. Soltanto la gestione dei canili costa ogni anno 600 milioni di denaro pubblico, sui quali ho chiesto al governo di fare luce. E nello stesso giorno, anzi due giorni prima, voi sapete che a Rimini sono stati sequestrati da un delfinario dei delfini per evidenti maltrattamento dalla forestale. Il nostro Giovanardi, sempre in prima linea a difendere onestissimi imprenditori come allevatori, pellicciai, gestori di circhi, zoo e via dicendo, si chiede perché la forestale collabora con un'associazione radicale come la LAV. E già su questo sarebbe da aprire una parentesi, ma evitiamo perché sono quasi le 11 e quindi vediamo di aprire parentesi. Com'è stato possibile che i delfini del delfinario di Rimini, sequestrati dalla Guardia di Finanza e trasportati all'acquario di Genova, abbiano subito la violenza di una deportazione in bare di legno, sottratti a forza dal luogo dove erano nati e vissuti, trasferimento che ha causato anche il ferimento di uno di loro? Lo chiede Carlo Giovanardi in un'interpellanza ai ministeri dell'Agricoltura e della Sanità. I presunti maltrattamenti psicologici dei delfini a Rimini, sostiene Giovanardi, sono stati ipotizzati da un veterinario in servizio all'acquario di Genova e da tre esperti vicini alla LAV, con il quale con la quale il Corpo Forestale dello Stato ha firmato una convenzione di collaborazione e consulenza. Giovanardi chiede come sia possibile che un corpo di polizia dello Stato, che dovrebbe essere imparziale e indipendente, si avvalga della collaborazione di una delle associazioni animaliste più radicali, che da tempo svolge una campagna per la chiusura dei delfinari in tutta Italia. Giovanardi Momè, Giovanardi Momè. Beh, lo ringraziamo insomma per queste chicche, queste perle di saggezza, certo, che ci ha portato. Ci fanno andare a letto più felici. Ricordiamo il sito carlogiovanardi.it. Vabbè, non facciamogli questa troppa pubblicità, su via. Allora, io direi che a questo punto possiamo un attimo passare anche agli appuntamenti, e a parte appunto l'appuntamento che già abbiamo dato prima con l'intervista appunto di domani sera a Villa Vegan, volevo ricordare insomma per questo sabato che ci sarà la serata a sostegno dei rivoltosi e delle rivoltose del 15 ottobre 2011, e ci sarà insomma serata ZK. E per il resto, tu hai altre iniziative? No, al limite qualche manifestazione per Giovanardi, non so se ci sta, ma... allora è meglio concludere tutto qua su. Sì, sta andando in vacca pure questa puntata, vabbè dai. Va bene, allora direi che possiamo salutarci a questo punto prima di degenerare totalmente. Sì, esatto. Diamo i nostri contatti? Sì, salutiamo pure i nostri due compagni di trasmissione, no? No, li ringraziamo insomma, sì, di essere qua presenti con noi. Una dice di essere malata, un altro sta in cima un albero come la noce de cocco, vabbè. E noi stiamo qua a Roma invece a fare la trasmissione. Vabbè. E va bene, allora, se volete scriverci alla nostra mail è lagazzaladra@inventati.org, e invece se volete guardare il nostro blog potete andare a, vediamo se se lo ricorda, radiopossum.noblogs.org. Grande. Hai visto? E poi ricordiamo anche i contatti della radio: www.ondarossa.info, email ondarossa@ondarossa.info, e poi visto anche che, come dice sempre Mocio, la radio non campa d'aria, per sottoscrivere, per dare una mano economicamente, intestato al, scusate, c'ho in mezzo una cosa, non riesco a leggere bene, Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185 Roma, numero di conto corrente 61804001. Perfetto, a questo punto salutiamo tutti e tutte, soprattutto coloro che sono privati della loro libertà personale, e ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao, ciao. Grazie.